Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un caro saluto a tutti voi. Sullo sfondo di questo tempo pasquale, auguro a ciascuno di voi di portare nel cuore la luminosità della Pasqua. Chiediamo insieme allo Spirito Santo di illuminarci con la sua luce perché il nostro ascolto della parola possa incontrare la nostra vita e continuare a plasmarla. Come sempre il nostro appuntamento si propone di continuare nella lezione del Vangelo di Marco. Siamo arrivati al capitolo 10, al versetto 46, quindi invito a quanti ne hanno la possibilità a prendere una Bibbia per tenerla sott'occhio durante questa trasmissione, in modo da percorrerla insieme a me e in modo da lavorare sul testo. I nostri obiettivi sono essenzialmente tre. Il primo obiettivo, quello più importante, è quello di restituire alla parola la forza della sua fecondità nei confronti della nostra vita, quindi una parola che non vuole fermarsi alla nostra testa, ma vuole scendere nel cuore. Secondo obiettivo è quello di cogliere la strategia narrativa dell'Evangelista Marco. Abbiamo detto anche nelle puntate precedenti come il secondo Vangelo sia pensato come un grande racconto, quindi l'Evangelista utilizza anche le strategie proprie di chi narra. Il terzo obiettivo è quello a volte di scavare dietro i singoli termini della narrazione, a volte dietro un termine si nasconde un mondo, una provocazione, un messaggio che l'Evangelista vuole deporre nei nostri cuori. La puntata di stasera si soffermerà su due episodi. Il primo episodio è quello dell'incontro di Gesù con il cieco Bartimeo, il secondo episodio è quello dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dal punto di vista narrativo siamo al termine del grande viaggio che ha portato Gesù dal nord della Galilea alle porte di Gerusalemme. Un viaggio che, se ricordate, era iniziato con un altro incontro, quello con l'uomo ricco, comunemente chiamato il giovane ricco, che all'inizio si era presentato con toni parecchio promettenti, ma alla fine se n'era andato via triste. Dopo quell'incontro Gesù aveva tenuto un discorso molto franco sulla ricchezza e sui rischi della ricchezza nel cammino di sequela e aveva infine ribadito ai suoi discepoli la necessità di un percorso che doveva passare per la passione, morte e risurrezione, una necessità di fronte alla quale i discepoli si erano ribellati. Eccoci quindi alla fine di questo cammino di Gesù che trova un altro momento di sosta, di blocco, di riflessione con i discepoli proprio nella città di Gerico. Ascoltiamo il testo. Ripeto, siamo al capitolo 10, al versetto 36 del Vangelo di Marco. Giunsero a Gerico. Mentre egli usciva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, un mendicante cieco, sedeva lungo la via. Sentito che c'era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare: «Gesù, figlio di David, abbi pietà di me!» Molti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte: «Figlio di David, abbi pietà di me!» Fermandosi, Gesù disse: «Chiamatelo!» Allora chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, allora, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Gesù gli chiese: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io possa tornare a vedere!» Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato. Subito tornò a vedere e lo seguiva lungo la strada. Il primo elemento da notare di fronte a questo episodio sono gli elementi che caratterizzano il parallelismo con l'incontro con l'uomo ricco. Un incontro che era narrato allo stesso capitolo nei versetti 17-22. Come Gesù aveva incontrato il ricco mentre usciva dalla città in cui si trovava per rimettersi in cammino, così incontra il povero Bartimeo mentre esce da Gerico. Il primo aveva bloccato il cammino di Gesù mettendosi davanti a lui, gettandosi in ginocchio davanti a lui, quindi obbligandolo a fermarsi. Il secondo fa la stessa cosa, blocca il cammino di Gesù gridando e imponendosi con il suo grido. All'uomo ricco Gesù chiede di lasciare tutto quello che ha e il ricco non riesce a farlo. All'uomo povero Gesù non chiede questo, tuttavia quando lo invita il povero lascia tutto quello che ha perché lascia il suo mantello e si precipita davanti a Gesù. Uno, benché invitato a seguire Gesù, se ne va via triste. Il povero invece, dopo essere stato guarito, si mette a seguire Gesù pieno di gioia per la strada senza che nessuno glielo abbia chiesto. Il ricco resta senza nome, il povero invece ha un nome e una dinastia ben precisa. Viene chiamato come il figlio di Timeo, Bartimeo. Ecco, è interessante notare questi parallelismi perché ci fanno capire che le due figure, quella del ricco e quella del povero cieco, sono come due figure antitetiche che vengono poste di fronte ai discepoli. Non a caso in tutti e due gli episodi i discepoli entrano in scena. Il ricco rappresenta, possiamo dire, il lato più negativo dei discepoli. Il povero invece gli elementi essenziali che ogni uomo può portare dentro di sé. E allora proviamo ad andare a scavare dietro le caratteristiche di questo povero per vedere i tratti positivi in cui questo povero può diventare un modello per i discepoli di Gesù e a distanza di tempo un modello per noi. Il primo elemento che caratterizza la descrizione di questo cieco è la sua staticità iniziale. Questo cieco è fermo, seduto, ai bordi della strada. In una scena dove tutti camminano, perché cammina Gesù, camminano i discepoli, ci viene detto addirittura che c'era molta folla che lo seguiva per via, l'unica persona che effettivamente si lascia plasmare da questo Gesù che passa è uno che è seduto, è uno che è fermo, uno al quale nessuno sembrerebbe dare due centesimi. Questo Bartimeo, una figura in margine, escluso dalla vita sociale, collocato addirittura fuori della città, è colui che diventa modello di tutti gli altri, che si ritengono in movimento, in cammino, si ritengono vicini a Gesù, lo seguono, lo ascoltano. Bene, nessuno di loro si lascia plasmare così tanto quanto quest'uomo seduto. Quando noi andiamo ad approfondire quello che era il contesto del primo secolo, si resta un po' sbalorditi quando si constata il ruolo che veniva riservato al cieco. Pensate, nel libro del Levitico, al capitolo 21, vengono riservati alcuni versetti ai ciechi per sottolineare che i ciechi non potevano essere ammessi alle cose sante. Perché non potevano essere ammessi alle cose sante? Perché non vedendo rischiavano di entrare in contatto con cose impure e quindi, non sapendo distinguere ciò che è puro da ciò che era impuro, venivano considerati come una classe non addetta ad accedere al Tempio e alle offerte del Tempio, quindi dovevano essere tenuti ai margini. Bene, in questo caso Gesù sceglie una delle figure considerate ai margini dai pii religiosi del tempo, ponendola invece a modello della vera sequela. Per provare questo vi leggo alcuni versetti del libro del Levitico, i versetti dal 16 al 21, dove il testo dice così: Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne dicendo: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio, perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né un cieco, né uno zoppo, né uno sfregiato, né un deforme, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio o la scabbia o piaghe purulente o i testicoli schiacciati. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne con qualche deformità si accosterà per presentare i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore». Vedete, questo testo che si limita a descrivere le funzioni di chi poteva accedere al gruppo dei sacerdoti, esclude da questo gruppo tutta una serie di categorie di persone, e la prima categoria che viene menzionata è quella dei ciechi. Lo stesso avveniva a Qumran. A Qumran non mancano testimonianze secondo le quali un cieco, proprio perché non riusciva a distinguere le cose sante da quelle profane e quindi era sempre esposto al rischio di contaminarsi con l'impurità, doveva essere escluso non solo dalla comunità di Qumran, ma anche essere posto fuori dalla città di Gerusalemme, perché la città di Gerusalemme era la città per eccellenza. Ora notate, in questo brano l'Evangelista Marco ci descrive questo cieco come l'unico che riconosce in profondità chi è colui che passa. Colui che passa, che viene definito dagli astanti il Nazareno, per il cieco è ben di più. Per il cieco quel Nazareno che passa è il figlio di David, quindi rappresenta una risposta alle attese messianiche. Ma subito dopo, quando viene chiamato, viene riconosciuto come Rabbuni. È una definizione molto particolare, perché è una definizione intima che si rivolge a Gesù chiamandolo mio maestro. Quindi è già una professione di fede. Teniamo presente che questa definizione Rabbuni nel Nuovo Testamento ricorre due sole volte, qui per il cieco Bartimeo e nel capitolo 20 del libro di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, sulla bocca di Maria di Magdala. Un altro elemento importante di questo cieco ai bordi della strada è il gesto che lui compie. Nel momento in cui viene chiamato da Gesù, il cieco ci viene detto che gettò via il mantello. L'Evangelista Marco è molto attento a tutta la simbologia legata ai capi di vestiario. Dietro quella simbologia c'è qualcosa che dice l'identità della persona. Ora, nei testi dell'Antico Testamento, il vestiario, per soprattutto il mantello, per le classi meno agiate, per i poveri, era la loro unica proprietà. Il fatto che questo cieco, alzandosi, butti via il mantello indica un grande atto di fiducia, perché non vedendo e gettando via il mantello, come faceva poi a recuperarlo? Come faceva a essere sicuro che nessuno glielo avrebbe portato via? È un atto di fiducia nei confronti di Gesù. Nel momento in cui si alza e si reca da Gesù, lui sa che quel Gesù gli può già restituire la vista che un tempo lui aveva. Quindi non è un gesto istintivo passeggero, è un gesto profondo, un gesto che dice la grande fiducia di quest'uomo nei confronti di Gesù. Ed è ovvio che questo atteggiamento, posto nel momento in cui Gesù sta terminando il suo viaggio verso la città santa, Gerico viene considerata fino ad oggi un po' come la porta di accesso verso Gerusalemme, da Gerico inizia la salita che porta a Gerusalemme, ecco, quel gesto di questo povero diventa l'emblema per i discepoli, per far capire loro cosa significa la sequela. Seguire Gesù significa lasciare ciò che dà sicurezza, ciò che dà protezione, il mantello, per lasciarsi profondamente trasformare da lui, passare dalla posizione di seduti alla posizione di uomini in cammino e soprattutto seguirlo con gioia lungo la strada. recuperare in tal senso la visione profonda delle cose che viene da Dio. E allora capiamo che questo cieco che Gesù incontra per la strada e che viene definito come il figlio di Timeo potrebbe assumere molti altri nomi. Potrebbe assumere il nome di Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Simone. Questo cieco rappresenta ognuno dei dodici e a distanza di tempo rappresenta ognuno di noi. Il Signore passa ogni giorno anche nella nostra storia, passa attraverso la parola, passa attraverso l'Eucaristia, gli incontri che facciamo, le persone che incontriamo, le parole che ci vengono rivolte. Ogni volta Gesù ci chiede in qualche modo di compiere questo gesto, il gesto richiesto a Bartimeo, quello di venire da lui gettando via il mantello per poi seguirlo per strada. Lasciamo ora qualche istante, uno stacco musicale in modo da interiorizzare quello che ci siamo detto e poi proseguire nel cammino di Gesù verso Gerusalemme, così come ci verrà descritto nel capitolo 11. Un breve stacco musicale. Eccoci, cari ascoltatori, di nuovo di fronte al testo di Marco e dopo l'incontro con Bartimeo, l'Evangelista descrive l'arrivo di Gesù a Gerusalemme. E allora ascoltiamo il testo, sono i primi versetti del capitolo 11. Quando giunsero vicino a Gerusalemme, a Betfagè e a Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte. Entrati, troverete subito un asino legato, sul quale nessuno si è ancora seduto. Scioglietelo e portatelo. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito qui». Essi andarono e trovarono l'asino legato presso una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni di quelli che stavano là dissero loro: «Che fate sciogliendo l'asino?» Ma essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono quindi l'asino a Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli si sedette in grotta. Molti stendevano i propri mantelli lungo la via, altri invece fronde verdi tagliate dai campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!» Entrò così a Gerusalemme, nel Tempio, e avendo volto lo sguardo attorno su ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì verso Betania con i dodici. Ecco, questa scena che abbiamo meditato poche settimane fa in occasione della Domenica delle Palme è molto ricca, perché da questo capitolo inizia praticamente una nuova grande pagina della narrazione di Marco. Pensate che fino a questo momento noi possiamo dire che in 10 capitoli l'Evangelista Marco ci ha raccontato 3 anni della vita di Gesù. Bene, i prossimi 6 capitoli saranno dedicati alla sua ultima settimana. E c'è una sproporzione enorme tra 3 anni in 10 capitoli e una settimana in 6 capitoli. Ma ci fa capire qual è l'elemento essenziale della buona notizia di Marco. L'elemento essenziale della buona notizia di Marco sta tutta nel mistero di passione, morte e risurrezione. E questa ultima settimana inizia proprio con l'arrivo a Gerusalemme. Molto bello e significativo il primo versetto, perché nel primo versetto ci viene detto che quando giunsero vicino a Gerusalemme vengono menzionate tre città, a Betfagè, a Betania, presso il Monte degli Ulivi. In altre parole, l'accesso a Gerusalemme sembra richiedere come passaggio obbligato, come tappe obbligate, queste tre città, Betania, Betfagè e il Monte degli Ulivi, o il Getsemani, che sarà il luogo del futuro Getsemani. Questi tre nomi non sono nomi casuali, dietro questi nomi c'è tutto un simbolismo che sembra suggerire al lettore le disposizioni essenziali per entrare con Gesù a Gerusalemme. Il primo nome che viene menzionato è Betfagè. Betfagè, se noi prendiamo la lingua ebraica, può essere traslitterato, tradotto, con la casa Betfagè del fico. Il fico la pianta di fico giocherà un ruolo chiave nei prossimi capitoli, lo vedremo nelle prossime puntate del nostro commento, perché Gesù nel suo vai e vieni da Betania maledirà un fico, una pianta di fico che in apparenza era carica di foglie, quindi florida, e quindi dava l'idea di molti frutti al suo interno, mentre quando Gesù si reca per prendere qualcosa da mangiare si rivela sterile. Betfage, in altre parole, è la città che richiama l'autenticità. Per entrare con Gesù a Gerusalemme e quindi per celebrare, vivere con lui il mistero della Pasqua, è necessario passare dalla città dell'autenticità, una città che richiede un incontro di Gesù schietto, franco, che mette a nudo, come Gesù metterà a nudo la pianta di fico, lasciando sconvolti gli stessi dodici che dicono: ma come? Il fico che tu hai maledetto si è seccato fin dalle radici. Ecco, quando uno non vive l'esperienza dell'autenticità, non può nemmeno accostarsi a Gesù. La seconda città, Betania, ha un altro significato. Betania in ebraico significa la casa del povero, la casa di colui che ospita Gesù, la casa dello spreco, potremmo dire. A Betania si svolgerà quel gesto, quello dell'unzione della donna nei confronti di Gesù, che spreca il famoso vasetto di nardo prezioso, rompendo il vasetto di alabastro, quindi altro materiale prezioso, e versando tutto l'unguento. Betania è la città dello spreco assoluto, dello spreco in apparenza immotivato. Ed è un pochino il secondo atteggiamento necessario per entrare nel mistero pasquale. Per capire il mistero pasquale di Gesù occorre essere disponibili allo spreco di sé. In fondo, che cosa sarà il racconto della passione e morte di Gesù se non un grande spreco del suo amore? Gesù dona la pienezza di se stesso a tutta una serie di persone, questo è tipico del Vangelo di Marco, che lo rifiutano, che non lo capiscono, che lo scherniscono. Non c'è nessuno, lo vedremo nel Vangelo di Marco, che raccoglie questa eredità preziosa, nessuno. Mentre invece gli altri evangelisti cercano di assicurare attorno al triste e drammatico corteo verso il Golgota alcune persone positive. Il terzo luogo è il Monte degli Ulivi. Monte degli Ulivi, o luogo del Getsemani, è, potremmo dire, il luogo del torchio. Getsemani, molti dei nostri ascoltatori, di voi ascoltatori probabilmente lo sapranno, significa appunto giardino del torchio, torchio dell'olio, rappresenta proprio il mistero della volontà di Dio. La volontà di Dio per Gesù, per chiunque lo vuole seguire, in alcuni casi richiede proprio il sacrificio dell'oliva, che viene schiacciata perché possa emergere il meglio di sé. È la logica del seme che muore, del grano che cade nella terra e muore pur di donare frutto. Quindi vedete come questo primo versetto dell'entrata di Gesù a Gerusalemme, dove ancora non ci viene detto nulla di quello che si prepara accanto a lui, già ci anticipa quello che avverrà. Le tre città, Betfage, Betania e il Getsemani, il Monte degli Ulivi, che è più che una città, è uno spazio, è un monte, una collina, rappresentano i tre atteggiamenti essenziali per vivere il mistero della Pasqua: l'atteggiamento dell'autenticità, l'atteggiamento dello spreco e l'atteggiamento del sacrificio. Nei capitoli che seguono Gesù visiterà non a caso tre volte la città di Gerusalemme, dopodiché si consumerà la Pasqua. La prima volta Gesù si limita a uno sguardo generale su di essa, è quella che vediamo oggi. La seconda volta prende posizione con azioni e parole ben precise, con la cacciata dei venditori, dei mercanti dal Tempio, mentre la terza si aprirà il confronto a parole con le autorità religiose, un confronto che sfocerà nella sua condanna a morte. Quindi è praticamente una sequenza in ascesa dove questi tre atteggiamenti che emergono dalle tre città menzionate assumono sempre più rilievo, sempre più forza. Per capire bene l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, il testo che abbiamo letto, occorre metterci in sintonia con i testi dell'Antico Testamento che hanno ispirato questa scena. Gli esperti dicono che dietro questa scena ci sono almeno quattro testi fondamentali, che riprendiamo brevemente. Il primo testo è un testo profetico, è il testo di Zaccaria, al capitolo 9, versetti 9 e 10. Zaccaria, tra le sue profezie, menziona proprio questa, che leggo anche a voi. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Ecco, Zaccaria nella sua profezia coglie nel re messianico degli atteggiamenti di fondo importanti: l'umiltà che si esprime nella scelta stessa della cavalcatura. La cavalcatura non è un cavallo, ma un puledro che è un figlio d'asina, quindi la cavalcatura dei poveri, e poi entra con una logica di pace. Ecco, Marco ci dà, ponendo in sintonia il suo racconto con questa profezia di Zaccaria, vuole dirci chi è Gesù. Gesù entra a Gerusalemme non, come noi spesso diciamo, con un ingresso trionfale, ma con un ingresso umile, che richiama l'attesa del re di Zaccaria, del re profetico. E il suo modo di fare, che culminerà nella morte, sarà il modo in cui viene spezzata la logica della guerra, l'arco della guerra. Quindi la logica della guerra, la logica della vendetta viene spezzata solo attraverso il dono di sé. La profezia di Zaccaria però non è l'unica che sta dietro questo brano dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. C'è un altro brano che fa da riferimento ed è la benedizione che Giacobbe, prima di morire, dà ai suoi figli, ai suoi 12 figli. Tra i figli menzionati c'è Giuda, uno dei figli che godono della primogenitura all'interno della famiglia. E nei confronti di Giuda, al capitolo 49 del libro della Genesi, viene espressa questa benedizione. Così si rivolge il padre Giacobbe, gli dice: Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone, Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato, si è sdraiato, si è accovacciato come un leone, e come una leonessa chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei poveri. Egli lega alla vita il suo asinello, e a una vite scelta il figlio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto. Allora, notate cosa si dice in questa benedizione. Si dice, non sarà tolto lo scettro di Giuda fino al giorno in cui verrà colui al quale esso appartiene. In altre parole, lo scettro spetta a Giuda, quindi a uno dei figli di Giacobbe, solo fino al giorno in cui verrà quello a cui appartiene. Si attende un altro, che viene identificato poi dalla tradizione come il Messia. E finché arriva questo, cosa fa Giuda? Lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina. Cosa fa fare Gesù ai suoi discepoli? Fa sciogliere il puledro perché diventi la sua cavalcatura. E questo è il segno che è finito il tempo in cui domina Giuda. In altre parole, l'Evangelista, attraverso un messaggio cifrato, ci fa capire che il momento del regno della legge, del regno del Tempio, è terminato, e il gesto che racconta questo cambiamento di situazione, pur nella continuità della storia, questo cambiamento di situazione è il cambiamento del gesto. Giuda non lega più il suo asinello alla vite, ma avviene l'esatto contrario, l'asino viene sciolto per essere condotto da Gesù. E allora alcuni vedono in questo proprio un secondo testo che venne utilizzato in ambito messianico per significare il cambiamento che sta avvenendo nella storia. Ovviamente questi non sono gli unici riferimenti all'Antico Testamento, ce n'è un terzo. Il terzo riferimento che sembra fare da sfondo a questa scena lo attingiamo dal primo libro dei Re, esattamente i versetti dal 38 al 40, dove viene descritta la scena dell'incoronazione di Salomone, il successore di Davide e il figlio di Davide. Il testo dice così: scesero il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di Ioiada, insieme con i Cretei e con i Peletei, fecero montare Salomone sulla mula del re Davide e lo condussero a Gicon. Il sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dalla tenda e unse Salomone. Suonarono il corno e tutto il popolo gridò, «Viva il re Salomone!» Tutto il popolo salì dietro a lui, il popolo suonava flauti e godeva di una grande gioia e il loro clamore lacerava la terra. Ecco, viene descritto e l'ingresso praticamente trionfale, in questo caso è trionfale da tutti i punti di vista, di Salomone nella città di Gerusalemme, e la scena è simile. Ci sono le acclamazioni, c'è il popolo che segue e precede il re, e tutto avviene dal torrente Gicon, che è proprio nella valle che divide la città dal Monte degli Ulivi, e si sale verso la città di Gerusalemme. È in altre parole lo stesso percorso che compie Gesù. Quindi in Gesù viene ripetuta la scena del figlio di Davide, dove però Gesù non solo è il figlio di Davide, ma è anche il figlio del Padre per eccellenza, è il figlio di Dio, e così entra nella città di Gerusalemme. Un ultimo testo che fa da riferimento a questa scena è un altro salmo, il Salmo 118, un salmo che ha a che fare anche qua con le tematiche del messianismo, esattamente nei versetti da 21 a 29. Questi versetti così canta il salmista: ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza, sarebbe in ebraico Osanna. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore Dio, egli ci illumina, formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Notate come da questo salmo sono riprese le acclamazioni che il popolo fa mentre accompagna Gesù verso Gerusalemme. Noi però spesso dimentichiamo il retroscena di questo salmo ed è la constatazione del salmista, quando al versetto 22 diceva: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. L'evangelista riprenderà questa scena poco più avanti, ma è un modo per indicare in questa frase il destino che attende il Messia. L'ingresso a Gerusalemme è un ingresso umile, che avviene all'insegna di una logica che è quella del dono di sé, della pace, che spezza ogni contese, ma dietro questa logica c'è sempre il dono di sé, il dono di una pietra che sarà scartata, ma che diventerà la testata d'angolo. Quindi vedete come di fronte a questo episodio, l'episodio dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, tante cose si celano dietro i singoli termini utilizzati dall'Evangelista. Si cela tanto dietro le tre città, Betfage e Betania, il Monte degli Ulivi, si cela molto dietro le evocazioni antico-testamentarie, che ci aiutano anche a capire come l'Antico Testamento è sempre la migliore scuola per capire le pagine del Nuovo Testamento. Ecco, prima di continuare con il nostro commento, lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo da interiorizzare quanto ci siamo detti, dopodiché continueremo nell'analisi di questo testo, prima di lasciare la parola a voi ascoltatori. Ecco, abbiamo avuto modo di cogliere la ricchezza narrativa dell'evangelista Marco. Ora sottolineiamo due altri aspetti di questo brano. Il primo aspetto curioso che suscita in ogni ascoltatore, penso, qualche interrogativo, qualche domanda, è il ruolo che in questo testo viene riservato all'asino. È curioso, ma in un episodio di 11 soli versetti, pensate, ben 6 vengono riservati dall'Evangelista per descrivere l'asino. E allora uno si dice, ma perché tanta insistenza? Non c'aveva altro da trattare con tutti gli insegnamenti di Gesù? Doveva riservare 6 versetti interi all'asino? Bene, questo asino gioca un ruolo chiave in questo episodio. L'asino evoca prima di tutto l'identità di Gesù, è un riflesso dell'identità di Gesù. In secondo luogo evoca la novità che è Gesù, in terzo luogo rappresenta la fedeltà di Gesù. Perché evidenzio questi tre aspetti? Perché effettivamente dietro questo animale si cela un messaggio importante dell'Evangelista. Il primo aspetto che si cela è il bisogno. Gesù entra a Gerusalemme sotto il segno del bisogno di qualcosa, come se Gesù mancasse di qualcosa. Invia i suoi discepoli a cercare un asino e lo chiede in prestito. E allora capite molto bene che un re che si presenta in questo modo è già perdente in anticipo. Che tipo di re è una persona che non possiede nemmeno un asino e lo deve chiedere in prestito? Ma dietro questo c'è proprio il messaggio di Gesù, il messaggio che Gesù vuole lanciare ai suoi. Gesù non si presenta come uno all'insegna del potere, all'insegna non si impone per quello che ha, ma per quello che è. Gesù entra in scena all'insegna dell'umiltà, quindi dell'umiltà e del bisogno, entra in scena come un povero, proprio come l'ultimo che si è messo alla sua sequela, il Bartimeo di turno che abbiamo visto prima. Quindi l'asinello diventa il segno dell'umiltà e della povertà come emblema della sintonia con Dio. Non sono, se fosse stato un sommo sacerdote, un altro principe della terra, il re di un altro popolo, ognuno avrebbe scelto il proprio animale, chi l'elefante, chi il cavallo, chi il cammello. Gesù no, sceglie un asino in prestito, perché vuole rappresentare proprio l'umiltà. Secondo elemento è il fatto che non è un asino qualsiasi quello che lui sceglie. L'Evangelista spiega che è un asino sul quale nessuno si è ancora seduto, il che ce lo presenta come un giovane asinello, uno che non ha ancora prestato nessun servizio ad altri. È evidente che dietro questo c'è l'emblema della novità. Il fatto di utilizzare questo animale significa che il messaggio che Gesù sta portando nella città di Gerusalemme sarà un messaggio inedito, un messaggio non prevedibile, non previsto, e sarà proprio questo l'elemento che disorienterà prima i dodici, poi i capi dei sacerdoti e quindi tutti quelli che staranno attorno a Gesù, al punto che questo messaggio inedito gli causerà la morte. C'è infine un terzo elemento legato a questo animale ed è la fedeltà. Perché dico fedeltà? Perché Gesù invia i suoi discepoli descrivendo loro come andranno le cose, i discepoli vivono la scena proprio come Gesù gliel'aveva descritta e quindi sperimentano in questo che Gesù è fedele a quello che dice. Ciò che Gesù promette, ciò si avvera. Magari loro si erano messi in moto dicendo, mo come faremo a prendere questo animale? Subito ci salteranno addosso dicendo, ma cosa fate? E invece tutto si svolge come Gesù ha detto. In altre parole, l'asinello richiama a coloro che gli stanno attorno una logica altra. Il compito di quell'asino è quello di ricordare i discepoli che dietro i fatti che stanno avvenendo nella storia, dietro i fatti del quotidiano, c'è un altro regista da ricordare. E quel regista è Dio Padre. Ecco allora un semplice animale, un semplice figlio d'asina, che diventa però l'emblema di un triplice messaggio. Un invito all'umiltà, un invito alla novità e un invito a ricordare che c'è una regia altra nella storia. E questa regia altra è la regia che viene da Dio, che viene condotta dal Padre. A questo punto si forma il corteo. E anche il modo in cui l'Evangelista Marco descrive il corteo è interessante, perché è un corteo che viene costruito su tanti elementi doppi. Mi spiego. Ci sono due gesti da parte dei presenti. Alcuni stendono i propri mantelli lungo la strada, altri tagliano le fronde dai campi. Due gesti. Due sono le posizioni delle persone. Alcuni precedono, altre seguono, quindi due posizioni. Due sono le acclamazioni. C'è chi dice benedetto colui che viene nel nome del Signore e c'è chi dice benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Due sono gli osanna. Quindi notate, tutti gli elementi sono doppi e all'interno di questi elementi doppi Gesù dovrebbe stare al centro di tale corteo. Ma se voi leggete con attenzione il brano, vi rendete conto che di Gesù non ci viene detto niente. C'è tanta gente che fa cacciara, gente che si spoglia, gente che taglia i rami, gente che acclama. Di Gesù non ci viene detto nulla, né cosa dice, né cosa fa, né come risponde a queste acclamazioni. quando l'obiettivo dell'evangelista si volta nuovamente su Gesù per mettere a fuoco la sua figura, Gesù è già da solo, perché ci viene detto ce lo ritrae nel momento in cui lui è nel Tempio a Gerusalemme e si guarda attorno. Ma l'asino non c'è più, la folla che acclama non c'è più, c'è solo Gesù con i suoi discepoli. Quindi c'è come se tanto viene messa in piedi una scena poderosa, ma è come se Gesù scivoli fuori da questa scena poderosa, conformemente a quanto avevamo cercato di illustrare prima nell'immagine dell'asino, scivola fuori per restare solo nell'intimità con i suoi. E la scena si conclude con quel versetto significativo dove ci veniva detto che, avendo volto lo sguardo attorno su ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì verso Betania con i dodici. Interessante, Gesù che sembra aver impostato tutto qui sulla salita al Tempio, e uno si aspetterebbe che Gesù faccia chissà che cosa, perché in Marco tutto il Vangelo è un grande cammino verso Gerusalemme. Bene, è arrivato a Gerusalemme, Gesù cosa fa? Si guarda attorno e poi va a Betania. E gli esperti dicono che questo è già un messaggio da parte di Gesù, che non vuole una comunità incentrata su un tempio, ma vuole una comunità incentrata attorno alla casa, che sarà il vero luogo della comunità cristiana delle origini, ma in quella casa, cioè Betania. E Betania, l'abbiamo visto all'inizio, era la città dello spreco, dove avverrà quel gesto della donna con il vasetto d'alabastro che indica questo amore che si dona pienamente ai suoi. Ecco quindi cosa ci dice questo grande episodio dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Un messaggio forte che va a toccare l'identità di Gesù, è un messaggio che chiede anche a noi di entrare in una logica altra. Ce lo suggeriscono le citazioni anticotestamentarie che abbiamo passato in rassegna, le quattro citazioni anticotestamentarie, ce lo suggerisce l'asino in quegli elementi che indicano l'umiltà, la fedeltà e anche la prospettiva altra di Gesù, ce lo suggerisce anche l'atteggiamento di Gesù che ci porta quasi a forza fuori da Gerusalemme per raccoglierci nella casa dello spreco a Betania. Eccoci giunti al termine della nostra riflessione di stasera. Ora lasciamo un altro stacco musicale, mentre chiedo a ciascuno di voi di preparare le vostre domande. Come voi sapete, per questa nostra trasmissione le vostre domande sono importanti, sono preziose. Fate in modo di rimanere aderenti al testo che abbiamo ascoltato, in modo da arricchire con l'approfondimento che esse susciteranno questa trasmissione che abbiamo iniziato insieme. Pronto, buonasera. Buonasera padre, sono Marina. Volevo gentilmente porle un quesito. Sì. E c'è una frase che ho sempre sentito e che però nessuno mai mi ha spiegato, cioè la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Allora, il mio quesito è questo, cioè la traduzione è scartata dai costruttori in quanto non bella, oppure scartata dai costruttori in quanto bella? Ecco, questo è il mio quesito, la mia domanda. Grazie signora Marina per la sua domanda. E effettivamente qua dobbiamo entrare in un ambito che ha a che fare con l'architettura del primo secolo e dei primi secoli. Tra le spiegazioni che vengono date riguardo a questa frase da un punto di vista architettonico, c'è la spiegazione che fa riferimento alle costruzioni che in genere venivano edificate a partire da pietre ben levigate, ben squadrate, tutte più o meno simili. Quando una pietra non aveva questi connotati, veniva messa da parte. Questo avveniva anche quando si trattava di costruire degli archi, delle costruzioni ad arco, degli archi di ingresso. Cosa succedeva però? Che le pietre che venivano scartate potevano poi essere utilizzate, erano quelle che venivano poi utilizzate per essere lavorate con lo scalpello in modo da diventare la pietra che univa i due archi. Se voi fate caso alle costruzioni del periodo romano, comunque dei primi secoli, notate che la pietra che unisce due archi ha una forma diversa rispetto a tutte le altre pietre che hanno più o meno la stessa forma. Ecco. Il riferimento è questo: Gesù è la pietra che inizialmente per la sua forma viene messa da parte, ma che alla fine, lavorata dal disegno di Dio, diventa la pietra d'angolo, cioè quella che permette ai due archi di congiungersi e di dare compimento all'intera struttura. Questa immagine è stata poi utilizzata anche come l'immagine simbolica dell'unità tra i due popoli, quindi il popolo dell'antica alleanza e il popolo della nuova alleanza, l'immagine dell'apertura globale, di questo Gesù che muore con le braccia aperte sulla croce a destra e a sinistra, diventa la pietra angolare che unisce a sé tutte le espressioni dell'umanità, cioè è diventato un po' l'emblema, un po' dell'unità attraverso però il sacrificio di sé, perché è la pietra che viene scalpellata rispetto più delle altre, perché le altre hanno già una forma ben fatta. Diversa quindi la pietra d'angolo che è stata menzionata non è la pietra posta a fondamento, perché ci sono due tipi di pietre d'angolo. Quella che viene menzionata qui è quella proprio di unione dei due archi, mentre la pietra posta a fondamento è un'altra, è la pietra che unisce le pareti e sulla quale si regge l'intera struttura. In quel caso però non ha senso la pietra scartata, perché è la prima pietra che viene posta sulla quale viene costruita tutta la struttura. Quindi la prima spiegazione che in genere viene data è quella che ho detto, la pietra posta alla sommità dei due archi. Grazie signora Marina per il suo intervento. Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Allora, mi chiamo Paolo, telefono dalla provincia di Bergamo. Mi dica Paolo, siamo contemporanei. Allora, io vorrei capire se praticamente faccio l'artigiano, sì, e faccio il falegname in modo particolare, quando faccio impiallaccio un mobile, cioè praticamente all'interno del tronco ci trovano certe macchie che... Io volevo chiedere questo in sostanza, per fare un esempio, ma dove le trovate voi tutte questi e sono tutti veri? Cioè questi aspetti dell'asino che praticamente trasporta Gesù a un evento nuovo, trasporta, cioè praticamente la folla, lui che non dice niente, eccetera, eccetera. Voi biblisti, quando incontrate il popolino come noi, cioè in pratica non lo potete spiegare così, lo fate solo attraverso le esegesi. Grazie. Grazie mille Paolo della tua domanda. Vedi, tu mi dicevi che sei un falegname, no? Che quando ti trovi a piallare il legno, man mano lo lavori, ti rendi conto che all'interno del legno ci sono delle venature, ci sono delle macchie, ci sono degli aspetti particolari che magari non si vedono quando il legno ti arriva nella forma grezza. In altre parole, è il tuo lavoro che permette di andare in profondità e cogliere tutta la bellezza del legno. Se tu consegnassi un pezzo di legno a me, io vedo solo un pezzo di legno. Invece tu probabilmente sai distinguere se è un legno di abete, se è una quercia, se è un ulivo. Lo senti dal tocco, dall'esperienza che tu hai. Lo stesso vale con la parola di Dio. Gli aspetti della parola di Dio emergono man mano noi li scaviamo, man mano ci confrontiamo, man mano cerchiamo. C'è un aspetto che permette, che è accessibile a tutti, ed è quello della preghiera. Quando uno si pone davanti alla parola di Dio e prega questa parola, a volte emergono dalla parola stessa, secondo me l'esperienza che io faccio è veramente quella che a volte è lo spirito che ti fa, che ti dona quell'intuizione particolare, no? Che ti permette di approfondire, di scavare, di cogliere un aspetto. Ovviamente tutto questo viene poi posto sotto il vaglio degli strumenti di studio, quindi la lingua antica, il significato delle parole, la logica narrativa, quello che altri studiosi hanno detto. Bene, tutti questi elementi messi insieme permettono di scavare il testo e scoprire tutti questi dettagli. Come rendere questi dettagli disponibili al popolo? Allora, ci sono diverse forme. Una è proprio quella che Radio Maria fa con così tanta premura e attenzione, quella di dar voce a chi ha approfondito questi strumenti in modo che la ricchezza scoperta venga condivisa. Un'altra modalità è quella dei libri. Diversi di voi al termine delle trasmissioni mi scrivono le mail chiedendo dei libri di riferimento per comprendere il Vangelo di Marco e io in genere ne indico tre, in base all'interesse di ciascuno. Ci sono strumenti di studio molto approfonditi, c'è un commento al Vangelo di Marco in tre volumi di un monaco benedettino, Benoît Standaert. È un testo veramente ben fatto, però sono tre volumi, questo è per gli studiosi. C'è un volume a livello medio che cerca, vuole parlare a tutti, però dà anche gli strumenti delle lingue antiche ed è il volumetto che ho pubblicato io. E poi c'è un terzo testo che io amo sempre suggerire molto ed è un libretto piccolo di un grande maestro nell'arte della Bibbia, che è stato ed è ancora un mio punto di riferimento, ed è il libretto di Maggioni, di Bruno Maggioni, sul Vangelo di Marco. Ecco, ognuno può scegliere, io suggerisco questi tre perché sono quelli che mi appassionano di più, quelli che secondo me favoriscono l'aggancio tra la parola e la vita, ma ognuno di voi può trovarne altri. Questi possono essere un'ulteriore via per scavare, per approfondire il Vangelo di Marco. Terza via è quella degli incontri, delle conferenze, dei gruppi biblici, delle lezioni divine che oramai ogni realtà diocesana organizza. E caro Paolo, guardi, la diocesi di Bergamo, non perché è la mia diocesi d'origine, ma organizza delle cose proprio ben fatte. A Bergamo ci sono dei biblisti veramente, veramente in gamba, basta menzionare Patrizio Rota Scalabrini, ma ce ne sono molti altri veramente in gamba, e anche il responsabile dell'ufficio catechistico diocesano, Don Pietro, fa fare dei percorsi biblici alle diverse comunità parrocchiali della diocesi che sono stupendi, quindi hai veramente degli ottimi maestri. Grazie del tuo intervento e spero di essere anch'io bravo nella parola di Dio, come tu sicuramente sei bravo nel lavorare il legno. Grazie della tua condivisione. Buonasera Don Giacomo. Buonasera, con chi parlo? Mi chiamo Maria Grazia, telefono da Rovereto. Sì. Ecco, grazie della sua catechesi. E, io volevo sottolineare questo. Lei ha parlato di Gesù povero, Gesù umile, e a volte mi trovo davanti a qualche cristiano che si scandalizza per, non so, dico solo un particolare, la sontuosità dei vestiti liturgici, no? E io dico bisogna vedere con che cuore, cioè niente è abbastanza degno del Signore, insomma. Volevo capire, volevo una sua risposta riguardo a questo. L'ascolto per radio, grazie. Sì, grazie Maria, grazie. Tu tocchi un aspetto che un pochino esula dal nostro discorso e cerco quindi di dare una risposta a quanto tu chiedi. Allora, bisogna un attimo distinguere il momento liturgico dalla vita quotidiana del ministro dell'altare, del sacerdote, del diacono o di chi per loro, del vescovo. Un conto è il momento della celebrazione. Voi sapete che nel momento della celebrazione il mistero che accompagna la nostra persona per il sacramento dell'ordine ci vede come rappresentanti del Cristo. Allora, in quel momento la Chiesa, la tradizione, con, a mio avviso, grande sapienza, ha voluto che si trasmettesse la preziosità di quel momento attraverso anche la dignità dell'arredo sacro e delle vesti liturgiche. È ovvio che tutto è caratterizzato da una certa solennità e sontuosità. Però quando questo diventa solo un modo da parte del ministro di ostentare se stesso, allora lì si entra in contraddizione. Ma non mi sembra che questo avvenga in modo così frequente. C'è, bisogna riconoscerlo che a volte c'è questo atteggiamento, però normalmente l'abito liturgico, i vasi sacri, l'arredo liturgico hanno la preziosità e la sontuosità per cercare di comunicare il mistero e la dignità di colui che l'arredo sacro serve e le vesti liturgiche rappresentano, il Cristo, con il ministro. Un'altra cosa è la vita del ministro dopo. Voi sapete che i ministri, dai religiosi ai sacerdoti diocesani, fanno tutti una scelta che dovrebbe richiamare la povertà. Proprio perché i classici riferimenti ai tre voti, alle tre promesse, povertà, castità, obbedienza, sono le tre vie della conformazione a Cristo. Cioè chi fa una scelta di porsi in continuità con la parola e la vita di Gesù, e ovviamente i ministri sono i primi ad essere in questa linea, devono in qualche modo adeguarsi, conformarsi, permettere al Gesù povero, casto e obbediente di trasparire attraverso di loro. E questo è un atteggiamento che di per sé non tocca solo i ministri, ma tocca tutti i credenti chiamati a dare questa testimonianza. Ecco, sono un pochino i due elementi che sento di indicare, ecco, a caldo di fronte alla sua domanda. Grazie comunque per questo quesito. Pronto, buonasera. Con chi parlo? Mi chiamo Paolo, il telefono da Roma. Sì. Guardi, volevo chiederle la frase che assegna Giuda lo scettro, ossia il padre che benedice Giuda e dichiara che lo scettro appartiene a Giuda fino a quando non sarà lasciato nelle mani a colui al quale appartiene. Ora, questo scettro nell'epoca precedente Gesù era uno scettro che aveva una natura politica e al tempo stesso religiosa. Quindi Gesù, quando viene e si riserva di prendere lo scettro perché a lui appartiene, questo scettro ha natura politica religiosa? Ci troviamo di fronte ad un monismo politico religioso? O sì, Dio è re politico e religioso, e il senso io sono re davanti a Pilato, è questo da un punto di vista teologico e da un punto di vista anche politico, cioè la pienezza del potere appartiene al re di Gerusalemme, di Giuda, di Israele, a questo Dio in senso politico e religioso. Si può interpretare questa frase, io sono re, in questo duplice senso, monismo politico-religioso, oppure è sbagliato? Grazie mille Paolo per questo tuo intervento, che va a toccare un altro aspetto molto delicato. Allora, nella risposta io mi fermo all'Evangelista Marco. L'Evangelista Marco, diversamente dagli altri evangelisti, è molto attento da questo punto di vista, cioè vuole sempre sciogliere ogni dubbio sul ministero di Gesù, nel senso che vuole dire chiaramente, far capire chiaramente ai suoi lettori che Gesù non vuole fare nessuna scelta di carattere politica. Gesù indica una strada che è profondamente umana, la scelta che Gesù indica è una strada, è una via che porta al massimo guadagno di umanità, diciamo così. E nel momento in cui diventa una grande scelta umana, per forza di cose diventa anche una scelta che ha dei risvolti politici e religiosi. Facciamo l'esempio proprio della scena di oggi, no? Che abbiamo commentato oggi, la scena dell'ingresso a Gerusalemme. È ovvio che nel momento in cui viene descritto questo corteo che sale a Gerusalemme, il corteo che sale a Gerusalemme ha un forte impatto di carattere politico. Però cosa fa Marco? Fa slittare via, fa sgusciare quasi da questo corteo Gesù, quasi a dire a Gesù non interessa di entrare a Gerusalemme come re, e infatti non entra a Gerusalemme come re. Prendiamo il racconto della passione, lei ha citato il momento di Pilato, andate a cercare in Marco, non troverete la risposta io sono re in Marco, non c'è questa risposta in Marco, perché Gesù si allontana da questa modalità di concepire la regalità. Tanto vero che in questo modo viene riletta la benedizione di Giuda, fino al tempo di Gesù, da Giuda a Gesù, Giuda è il figlio di Giacobbe, a Gesù si porta avanti un tipo di strategia che è quella che lei mi indicava facendomi la domanda, cioè questo unico re che ha il potere politico e religioso tra le mani. Con Gesù entra in scena un'altra logica, e la logica è quella del servizio, del dono di sé, dello spreco, dell'amore che si dona fino a lasciarsi umiliare. E questa strategia è quella che rompe ogni logica politica, ogni logica religiosa, e che obbliga a un totale ripensamento di sé. E allora ecco perché Gesù, dopo aver guardato ogni cosa dice? Prima sguscia fuori dal corteo, quindi va contro una logica politica, e il giorno dopo compirà la cacciata dei venditori del Tempio. Non per dire che il Tempio non ha ragion d'essere, perché a volte si è visto in quel gesto come un messaggio indiretto di Gesù che il Tempio aveva terminato la sua ragion d'essere. Gesù non voleva dire che il Tempio non aveva nessun significato, no, ma che il modo in cui ci si accostava a Dio, quindi la religiosità, una religiosità fatta di sacrifici di animali, fatta di una ritualità esteriore, fatta di un predominio della legge, andava totalmente reimpostato. Quindi Gesù si presenta secondo una logica che è totalmente diversa nel modo di reggere questo scettro, e il suo modo di essere servo e schiavo di tutti, atti, fino al dono supremo di sé, fino allo spreco, diventa, in modo indiretto, una rilettura totale della politica del tempo e della religione del tempo. Quindi, vede, signor Paolo, è articolata la risposta. Non posso rispondere dicendo no, Gesù non vuole imporre un monismo politico-religioso, e nemmeno sì, Gesù, nel senso che ci sono alcuni aspetti, sicuramente la via prioritaria che Gesù vuole indicare è l'essere conformi al disegno del Padre, e il disegno del Padre è quello di essere in grado di amare fino al dono totale di sé. Tutto questo ovviamente si traduce subito in provocazioni che hanno dei risvolti sia politici che religiosi, quindi i due elementi sono collegati, non c'è un aspetto umano che non abbia dei risvolti su tutti gli altri elementi. Gesù si è fatto uomo assumendo tutta la realtà umana, la dimensione religiosa, la dimensione politica, la dimensione sociale, sono tutti aspetti che hanno a che fare con la nostra esperienza umana, e quindi la scelta di Gesù ha anche dei risvolti in tal senso, però questo elemento non è l'elemento dominante, non è l'elemento prioritario. Gesù non è venuto per impostare, per fare lo stratega politico, non è venuto per impostare un nuovo sommo sacerdozio, anche se tutto questo indirettamente si afferrerà. Grazie. Pronto, buonasera. Padre, buonasera, sono Maria, telefono dalla Sicilia, un attimo che spengo la radio. Volevo dire una cosa, che noi cristiani abbiamo dimenticato una cosa importantissima, che Gesù è venuto in miseria, ma lui è il re, e sarà il re della terra. Cioè, quando diciamo della risurrezione dei corpi e della vita del mondo che verrà, e del venga il tuo regno, il regno è qui sulla terra. Cioè, altrimenti questo pianeta, Dio Padre, perché l'avrebbe creato per il nulla? Non è possibile, quindi Gesù sarà il re di questa terra e noi cristiani saremo i chiamati a stare con lui su questa terra, nella pace, nell'amore, nella concordia, nell'unione tra fratelli, ci vorremmo tutti bene. Sarà una vita meravigliosa, piena di gioie, senza più il demonio incatenato e finalmente buttato all'inferno per sempre. Carissima Maria dalla Sicilia, la ringrazio del suo intervento, ma mi permetto di fare alcune precisazioni, cioè dire che il regno di Dio sarà il regno terrestre o altre considerazioni che si spingono fino a delinearne la modalità, forse un pochino troppo, un pochino azzardato. Il nostro modo di cogliere il mistero del ritorno del Signore, il ritorno della sua parusia, è limitato, cioè chiaro, noi possiamo descrivere il futuro che sarà con le categorie umane, e il regno è una di queste categorie umane, però nello stesso tempo io inviterei a fare questa considerazione. Vedete, il Messia nel primo secolo era atteso in tanti modi. C'era chi si aspettava un nuovo Davide, quindi un nuovo re, chi si aspettava un nuovo Aronne, quindi riteneva che Gesù sarebbe il Messia, lo identificava con un grande sommo sacerdote giusto che avrebbe riformato il Tempio di Gerusalemme, gli amici di Qumran pensavano questo. C'era chi lo attendeva come un nuovo Mosè, quindi uno che avrebbe scalzato i romani, avrebbe portato fuori il popolo dalla nuova schiavitù che era quella dell'impero e avrebbe veramente impostato, avrebbe veramente inaugurato la terra con latte e miele, la terra florida, verde, priva di ogni deserto. C'era chi si attendeva altre figure, il nuovo Elia, quindi il profeta di fuoco che avrebbe ucciso tutti i profeti pagani. C'era chi si aspettava il nuovo Giuseppe figlio di Giacobbe, quello che dall'Egitto era riuscito a salvare la sua intera famiglia. Insomma, erano tante le attese e ognuno, in base alla sua realtà sociale, se lo dipingeva un po' a modo proprio. Quando è arrivato Gesù, nessuno ci ha capito più niente. A partire dai 12, perché tutti cercavano di identificare Gesù in quelle immagini che avevano in testa, mentre Gesù ha sconvolto tutti e ha dato come immagine finale quella di un uomo spoglio, maledetto, insanguinato, inchiodato su una croce, di fronte al quale tutti voltavano il capo, prima di arrivare al mistero ovviamente della sua gloriosa risurrezione. Ecco, noi oggi rischiamo di fare lo stesso errore, il regno futuro, ognuno ce lo si immagina come vuole, e c'è quel movimento che lo immagina così, quell'altro movimento che lo descrive in questo modo, ci sono alcuni movimenti poi che lo descrivono nei minimi particolari, impostano intere pubblicazioni su titoli ad effetto del regno futuro che verrà. Stiamo attenti, perché come il Signore ci ha lasciati tutti a bocca aperta quando ha mostrato come l'attesa messianica si incarnasse nel mistero di un uomo che ha donato totalmente se stesso fino a morire, a soffrire su una croce e a risorgere il terzo giorno, così avverrà alla fine. Resteremo tutti di stucco a bocca aperta. Certa è una cosa, quello che troveremo non avrà più nulla a che fare con il mistero del male e ci introdurrà nella pienezza del mistero di Dio e nella pienezza del mistero di noi stessi. Grazie a te, cara Maria, dalla Sicilia. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, don Giacomo, Salvatore dalla Sicilia. Bene, un altro sicolo, benvenuto. Un altro sicolo, sì. Senta, io le telefono per questo. Alla fine della lezione, lei ha detto che Gesù, dopo le acclamazioni, preferisce andare via a Betania e si reca nella casa dello spreco. Ho sentito bene? Esatto, esatto. Era evidentemente riferendosi al giudizio di Giuda, che Giuda dà sul fatto che Maria cosparge di olio profumato i piedi di Gesù. Quando Giuda dice: perché questo spreco? Questi soldi si potevano dare ai poveri. Esatto. Bene? Sì. Ora, come mai si utilizza tutto sommato un'espressione, diciamo così, per indicare la casa di Lazzaro, oltretutto Lazzaro miracolato, un'espressione di Giuda Iscariota che è un'espressione contro Gesù tutto sommato? Come mai gli studiosi chiamano la casa di Betania casa dello spreco? Ecco, questa è la mia domanda. Sì. Allora, vabbè, l'ascolto per radio. Grazie mille, Salvatore, per questa interessante domanda. Allora, prima di tutto va detto che noi siamo nel Vangelo di Marco, la sottolineatura dello spreco è particolarmente forte perché Marco, diversamente da altri Vangeli, non mette queste parole sulle labbra di Giuda, no? Ma dice così: ci furono fra loro alcuni che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora, non è questione di Giuda solo, è questione di alcuni. E questi alcuni sono quelli dei 12, perché Gesù è lì con i 12 in casa, nella famosa casa di Betania, no? Per di più enfatizza ulteriormente la cosa dicendo che sono infuriati, cioè una rabbia enorme nei confronti di questa donna che ha buttato via tutto questo, quando poteva, avevano persino calcolato il prezzo, è il salario di un anno intero che viene sprecato, buttato al vento nei confronti di Gesù, stando a queste persone. Ecco, dicevo, perché davo tanta importanza a questo episodio? Perché questo episodio lo troviamo al capitolo 14 del Vangelo di Marco, il capitolo che ci introdurrà proprio da vicino nel grande mistero pasquale. Quindi anticipa in quel gesto il destino di Gesù. In altre parole, quell'unguento che è raccolto nel vasetto di alabastro, stando ad alcuni studiosi, e io personalmente ne sono convinti, guardi che altri pensano diversamente, io però sono convinto di questa lettura, quell'unguento e quel vasetto altro non sono che il simbolo di Gesù, di quello che sta avvenendo per Gesù. Il corpo di Gesù sarà frantumato, martoriato come il vasetto prezioso d'alabastro. E l'unguento contenuto non è altro che l'amore, il dono di Gesù, che nel momento in cui quel vasetto si spreca, si rompe, si infrange, l'unguento scenderà su tutta l'umanità. Interessante, nel Vangelo di Marco ci viene detto che il gesto che compie la donna dopo aver rotto il vaso di alabastro è quello di versare il profumo non sui piedi, sul capo di Gesù. L'unguento versato sul capo diventa quindi non un gesto di servizio, ma quasi un gesto che dice la dignità che è Gesù. Il profumo diventa una sola cosa con lui, diventa l'unzione di tutta la sua persona, diventa la dignità della sua persona, rappresenta la dignità della sua persona. L'Evangelista ci sta dicendo, ci sta anticipando che il dono di Cristo sulla croce sarà tale che nel momento in cui il suo vaso di alabastro, il suo corpo sarà spezzato nella morte, il dono del suo amore si riverserà sul nostro capo, restituendo a ognuno di noi la grande dignità che ci caratterizza nel cuore, che è la dignità dei figli di Dio. Quindi avviene lo stesso gesto, e lo stesso gesto avrà la stessa reazione. Tanti saranno infuriati contro i cristiani. La comunità di Marco, quando scrive, è una comunità che probabilmente vive la persecuzione. E quindi in questi gesti è la comunità che ritrova se stessa, quindi vede come anche un semplice gesto aiuta a entrare nel significato della scena. È proprio a partire da questo che ho definito Betania, che alla lettera non significa casa dello spreco, alla lettera significa casa del povero, però è nella casa del povero che si arriva allo spreco giusto, solo il povero sa donare fino in fondo quello che ha. Il ricco in genere ha il rischio di essere un pochino avaro, il povero no, il povero è sempre quello che alla fine allunga la mano con il poco che ha per condividerlo. Questo poco che ha per condividerlo in Gesù diventa lo spreco di tutto se stesso nella logica del dono fino alla morte e alla morte di croce. Grazie Salvatore per la tua domanda. Mi dicono dalla regia che era la nostra ultima domanda, quindi cari ascoltatori, ringrazio ancora ciascuno di voi per i vostri interventi, ringrazio Marina, Paolo di Bergamo, Maria Grazia, di nuovo Paolo, Maria della Sicilia e Salvatore della Sicilia, che con le loro domande hanno arricchito la nostra trasmissione. Auguro a ciascuno di voi la pienezza della benedizione pasquale e ricordiamoci a vicenda al Signore, perché ciascuno dal suo posto di lavoro, di vita quotidiana, possa sempre vivere la vita cristiana in pienezza. Un caro saluto a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.